Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Questa nuova ondata l'affronteremo con grande senso di responsabilità, sensibilità, afferrando quelli che sono i valori in gioco e smettiamola di far polemiche, di far discorsi astratti, di far discussioni, come dire, dibattiti. Qui bisogna essere concreti, perché c'è da tutelare la salute propria delle persone anziane, perché se cresce il numero dei contagiati, crescono il numero delle persone che sono negli ospedali e in particolare in terapia intensiva, andremo di nuovo in difficoltà. Dobbiamo arrestare questa curva e per farlo non c'è nulla di meglio in questa fase che rispettare le regole. L'ha detto con fermezza, l'avete sentito cari ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi il presidente del Consiglio Conte a proposito delle polemiche nei confronti delle nuove regole restrittive del nuovo DPCM, il decreto del presidente del ministro del Consiglio. E a proposito soprattutto delle reazioni dell'opposizione, oggi per esempio in Parlamento la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha parlato, ha definito le diverse regole che sono all'interno di questo nuovo DPCM delle idiozie. Poi oggi è stata ventilata dal microbiologo Crisanti, che sapete è poi stato il faro per il Veneto e il contrasto al Covid di Veneto del presidente Zaia, che ha detto, che ha ventilato che ci potrebbe essere, che sarebbe opportuno anzi un lockdown a Natale in Italia per bloccare completamente la circolazione del coronavirus. Conte non è sembrato molto favorevole, però ha detto che potrebbero essere possibili delle misure restrittive che però decideranno le regioni. Ne parleremo con il professor Matteo Bassetti del San Martino di Genova. Poi ci occuperemo nuovamente della questione del nodo che unisce trasporti, mezzi pubblici e scuola. Sapete che le regioni hanno chiesto di fare in modo che si ritorni la didattica a distanza per le scuole superiori in modo da non congestionare i mezzi pubblici. Oggi c'è stato questo tavolo con la ministra dei trasporti e delle infrastrutture, vedremo quali sono le conclusioni e anche che cosa ne pensano i presidi. Per esempio ieri c'era il presidente dei presidi che ha detto no, siamo contrari a ritornare alla didattica a distanza. Oggi il tema è possibile scaglionare gli orari d'ingresso delle ragazze e dei ragazzi a scuola? Ne parleremo. E poi collegamento con la Francia, visto che il presidente Macron ha annunciato questa sera che da sabato notte a Parigi scatta la chiusura totale tra le 21 e le 6. Moltissima carne al fuoco, quindi mi raccomando, non perdete neanche un minuto di Effetto Notte. Potete scrivere i vostri commenti sulla pagina Facebook del programma oppure al WhatsApp al 349-238-6666. 349-238-6666. Sintesi prima di tutto della giornata. Evoluzione del Covid in Italia, record di nuovi casi, 7.332 in 24 ore con oltre 152.000 tamponi, 43 morti. E sulla possibilità ventilata di un lockdown a Natale, Conte dice possibili misure restrittive territoriali, ma decideranno le regioni. Controlli, 2.000 in 7 giorni nei locali, 351 violazioni nel 43% dei casi per mancata mascherina. Francia, Macron annuncia da sabato notte per 6 settimane a Parigi scatta il lockdown tra le ore 21 e le 6. Economia italiana, via libera allo scostamento di bilancio, Conte promette misure per l'occupazione femminile. Stati Uniti, Biden attacca Trump nei sondaggi, stacca Trump nei sondaggi di 17 punti, domani duello a distanza in diretta TV. Calcio, Napoli punito per la mancata partecipazione alla partita con la Juventus, 3-0 e un punto di penalità in classifica. Ora in campo a Bergamo la nazionale maschile nella sfida per la Nations League. Partiamo quindi prima di tutto dall'andamento del coronavirus in Italia. 7.332 nuovi casi, ma con un record assoluto di tamponi 152.000 in un solo giorno. Bisogna tornare al 21 marzo per trovare un dato simile. Allora i casi furono oltre 6.500, ma è doveroso precisare con un sesto dei test effettuati. Mentre rispetto al giorno precedente diminuisce oggi la percentuale di nuovi positivi su tamponi. Frena la crescita delle terapie intensive, 25 in più contro i 62 di ieri, mentre morti sono 43 a fronte dei 45 del giorno precedente. precedente, un quadro che però ovviamente resta preoccupante, soprattutto in Lombardia, dove è stato boom di contagi, quasi 2000 nuovi casi in più, seguita dalla Campania con oltre 800, e così il Premier Conte. Continua questa curva che sta lentamente ma progressivamente crescendo, è una situazione che non può non preoccuparci, non può non spingerci a rispettare tutte le regole. Quanto all'ipotesi di un lockdown a Natale, ventilata dal virologo Crisanti dell'Università di Padova, Conte spiega: non faccio previsioni, ma invito tutti a rispettare le regole per prevenire un lockdown. Questa nuova ondata giunge, l'affronteremo con senso di responsabilità, smettiamola di fare polemica. Mentre per il presidente della Regione Lazio Zingaretti occorre fare di tutto per evitare il lockdown nelle scuole, incentivando di più, dice, lo smart working. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per limitare i contagi, i carabinieri del NAS, in accordo col Ministero della Salute, stanno intensificando i controlli sui locali della Movida. Sentiamo il maggiore Dario Pardurlon del Comando Carabinieri Tutela Salute al microfono di Alessandro Arona. Nell'ultima settimana abbiamo intensificato i controlli, controllando in pochi giorni circa 1900 esercizi di ristorazione, somministrazione di alimenti, bevande, pub, birrerie e altri locali frequentati da giovani o comunque legati alla Movida. Sono state contestate 351 violazioni, che in alcuni casi hanno riguardato lo stesso locale. La principale delle violazioni contestate è stata, nel 43% dei casi, il mancato uso della mascherina, sia casi della clientela e degli avventori, ma in particolar modo da parte degli operatori. Diciamo, mediamente la sanzione è di 400 euro. L'intenzione del Comando Carabinieri Tutela Salute è quello di continuare a mantenere un alto livello di attenzione e di sorveglianza. E all'indomani del varo del nuovo DPCM, le regioni sollevano preoccupazioni, come sapete, per la gestione del trasporto pubblico. Oggi c'è stata la riunione preliminare al Ministero dei Trasporti e quindi la conferenza delle regioni per le sue valutazioni. Tra le principali conclusioni di questo primo incontro, quella che riguarda la capienza massima dei mezzi pubblici, che rimane all'80%, con però disponibilità da parte del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell'Interno a tavoli operativi regionali e provinciali e di coordinamento per affrontare le situazioni di maggiore criticità. Ieri, la puntata di ieri, per parlarne, era in collegamento il presidente di Astra, dell'associazione delle società datoriali del trasporto pubblico locale, ma si tornerà a parlarne anche in questa puntata, tenendo conto anche dell'ipotesi emersa di scaglionare l'ingresso degli studenti a scuola. E alla vigilia di una stagione influenzale resa più complessa dalla compresenza dell'epidemia Covid, arriva l'invito del Ministro della Salute Speranza ad aderire alla campagna vaccinale in partenza in tutte le regioni d'Italia. I viaggi di Radio 24. La Campania, tra le regioni più colpite dalla seconda ondata dell'epidemia di Covid, si è preparata al meglio per la campagna vaccinale contro l'influenza, con l'urgenza di evitare a ogni costo un sovraffollamento dei pronto soccorso che potrebbero ostacolare la presa in carico di eventuali pazienti Covid. Le dosi di vaccino ci sono, resta l'incognita dell'adesione, monitorata in tempo reale da un'efficiente piattaforma informatica. La Campania è già partita con le vaccinazioni antinfluenzali il 1 ottobre, dopo aver acquistato celermente e in anticipo sulle altre regioni 1,8 milioni di dosi, aumentando del 20% i quantitativi rispetto allo scorso anno. La prima linea della prevenzione è stata quella degli operatori sanitari e dei lavoratori dell'RSA, vaccinati all'interno delle strutture in cui operano. Per le fasce a rischio, l'erogazione avviene prevalentemente negli studi medici, che, avendo iniziato per tempo, hanno potuto organizzare meglio gli operatori appuntamenti per evitare il rischio di assembramenti. Massima priorità in una regione che attraversa un momento critico sul fronte Covid. Tra le categorie target individuate dalla regione, oltre a bambini, fragili e anziani, anche soggetti addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo e personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani. Enrico Coscioni, consigliere per la sanità del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e presidente Agenas. Saranno i medici vicino al generale, i pediatri di libera scelta e l'ARL a fare gran parte del lavoro rispetto alle fasce a rischio prima e poi anche per coltivalente adiuvante, quelli con patologie over 75. E poi ci saranno anche dei bus che circoleranno per le grandi piazze delle città per favorire ulteriori vaccinazioni. Entro fine ottobre abbiamo già il primo report di quanti saranno stati vaccinati. Abbiamo una piattaforma informatica in Campania che si chiama GEVA e entro novembre riusciremo a dare anche una quantità significativa di vaccini alle farmacie. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Passiamo alla politica economica. Dal Senato arriva il via libera allo scostamento di bilancio. Il presidente del Consiglio Conte intanto assicura misure a sostegno dell'occupazione femminile con le risorse del Recovery Fund. Dal Senato arriva il via libera allo scostamento di bilancio e alla nota di aggiornamento al DEF, la cornice della prossima manovra. I provvedimenti passano nonostante l'assenza per Covid di diversi parlamentari della maggioranza. L'opposizione si è astenuta sullo scostamento mentre ha votato no alla NADEF. Il premier Conte intanto, in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì, assicura che una parte significativa delle risorse del Recovery Fund sarà destinata all'occupazione femminile. Promuovere l'occupazione femminile anche tramite agevolazioni per le donne e le madri lavoratrici, da definire un assegno unico universale per ogni figlio a carico in raccordo con una più organica riforma fiscale, potenziare l'accesso ai servizi per la prima infanzia. Sempre dal governo, il ministro Franceschini assicura che andranno avanti fino alla fine della crisi gli aiuti al settore del turismo, uno dei più colpiti. Il nostro paese ha bisogno di riforme, non può aspettare solo che arrivi l'Europa, incalza intanto il presidente di Confindustria Bonomi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ora all'estero, con la situazione in particolare in Europa legata al coronavirus. In tutto il mondo sono stati superati i 38 milioni di casi di Covid. Prosegue appunto l'impennata invece di casi in Europa, dove alcuni paesi decidono di chiudere anche le scuole. Nuovi record di contagi e nuove restrizioni in Europa. Bar e ristoranti chiusi per 15 giorni a partire da venerdì in Catalogna. Record di nuovi casi, più di 26.000 negli ultimi 7 giorni in Germania, dove il governo intende estendere l'obbligo di mascherina. Boom anche in Belgio, 5.000 nuovi contagi al giorno, più 93% rispetto alla scorsa settimana. 150 i pazienti ricoverati d'urgenza ogni giorno, situazione critica nelle terapie intensive entro metà novembre, dice Bruxelles. Il Belgio è il secondo paese per tasso di infezione in Europa, il primo è la Repubblica Ceca, che oltre a bar e locali ha deciso di chiudere anche le scuole per 3 settimane. Scuole chiuse per 2 settimane anche in Irlanda del Nord, per 1 mese i pub. Intanto occhi puntati sulla Francia, dove da venerdì torna lo stato di emergenza. Con un discorso in TV questa sera il presidente Macron potrebbe annunciare nuove restrizioni nelle grandi città. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E infatti Macron l'ha annunciata in serata queste nuove misure, ha annunciato che da sabato notte per 6 settimane a Parigi scatta il lockdown tra le ore 21 e le 6, poi ci collegheremo per maggiori dettagli direttamente con Parigi. Stati Uniti, Wisconsin, Michigan e Florida, Biden, candidato democratico alla Casa Bianca, avanti nei sondaggi e per i giorni finali scenderà in campo anche Obama. Joe Biden è in vantaggio su Donald Trump nei sondaggi nei 9 stati più contesi e che potrebbero decidere le elezioni presidenziali in 3 settimane. Tra questi anzitutto Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e Arizona, ma anche North Carolina e Iowa, e la Florida, che per Trump è diventata essenziale alle sue chance. In molti di questi stati Biden potrà nei prossimi giorni contare anche su eventi con la partecipazione dell'ex presidente Barack Obama, ancora molto popolare. Su scala nazionale mantiene un vantaggio su Trump di 10 punti in media. Biden e Trump avranno 2 town un hall contrapposto giovedì sera al posto del dibattito cancellato dopo la diagnosi da Covid del presidente. Trump, che si dichiara guarito e immune da un virus che continua a imperversare nella nazione, sta moltiplicando il numero di viaggi e comizi in uno sforzo di riscosse in extremis entro il 3 novembre. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. E siamo allo sport per chiudere. Intanto il tennis, anche Fabio Fognini è risultato positivo al Covid-19, l'esito del tampone effettuato sul tennista azzurro all'Open in corso a Cagliari. E poi per la mancata partita tra Napoli e Juventus arriva la stangata per il Napoli, 0-3 a tavolino per non essersi presentati a Torino e un punto di penalizzazione in classifica, fermo restando che la procura della FIGC indaga sul mancato rispetto dei protocolli. Mentre è protocollato il nostro Dario Ricci, che è in diretta allo stadio di Bergamo per la partita della nazionale maschile italiana contro l'Olanda. Ciao Dario! Eccoci Roberta, 34esimo di gioco ed è 1-1 tra Italia e Paesi Bassi, perché c'è questa curiosità che più è sfuggita, non possiamo più chiamarla Olanda perché gli olandesi stessi, cioè gli abitanti dei Paesi Bassi si sono, e la federazione hanno fatto una protesta perché di fatto l'Olanda è una regione dei Paesi Bassi, quindi da oggi l'Olanda almeno calcisticamente Paesi non esiste bassi. Più, sono sì, i Paesi Bassi. Bene, toltaci, Paesi toltaci questa curiosità, andiamo alla cronaca, siamo sull'1-1, un risultato che finora sta stretto all'Italia, andata in vantaggio al 17esimo con una bellissima azione di Barella che ha imbeccato con un bel tocco in orizzontale Lorenzo Pellegrini, freddo il romanista a beffare Silesen in uscita, poi un'altra ottima occasione per Immobile, bravo questa volta il portiere dei Paesi Bassi a respingere, ma poi al 26esimo è arrivato il pari dei Tulipani con l'azione sulla sinistra di Blind, il cross al centro, la deviazione di Depay e poi la doppia conclusione di Van der Beek che ha beffato, che ha battuto Donnarumma per l'1-1. Serata del tutto particolare in cui gli azzurri e la nazionale abbracciano Bergamo per i motivi chiaramente tristemente noti. In tribuna ci sono i rappresentanti del personale sanitario dei due principali ospedali della città e poi una rappresentanza cospicua dei 243 sindaci della provincia a rappresentare tutti i tifosi appunto bergamaschi che si stringono intorno agli azzurri. Siamo adesso al 35esimo ancora. Scusami, un pubblico ad alto valore simbolico, Dario, e sento un sonoro, una sonorità sì, molto particolare, che sembra quella di quando si va a vedere una partitella così nei campi di calcio dei paesi, sì, proprio perché di solito la tua voce quando sei in diretta da uno stadio è soffocata dalle urla, da schiamazzi, da una folla di voci, invece qua si sentono proprio gli urli di poche davvero, persone. Si sentono insomma, i giocatori, no? Si sentono i giocatori, tra l'altro Olanda vicinissima al raddoppio, per fortuna De Jong sbaglia il Paesi Bassi di testa, non si dice Olanda. Ah, hai ragione, scusa, caspita, i Paesi Bassi. Chiudo dicendoti che è stato molto, molto emozionante il momento dell'inno nazionale, perché proprio di fronte a me, nella tribuna di fronte, ci sono proprio tutti i sindaci con le loro fasce tricolori. Ebbene, devo dire, è stato un momento toccante a pensare a quello che questa terra e altre, ma in particolare questa, la vicina Brescia, e sappiamo bene tutti, ha sofferto e ci hai trasmesso questa sensazione. Grazie Dario Ricci. Sì, Dario, sì, sì. Ci sentiamo allora poi nel corso della partita per sapere come prosegue. Adesso devo proprio fermarmi per aggiornare invece chi si sta viaggiando e tra poco subito col primo ospite. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, Roberta Giordano con voi, che vi ha appena raccontato le notizie principali della giornata, come sempre nella prima parte della puntata, e avete sentito appunto nella prima parte i dati, come sempre, legati all'evoluzione del coronavirus in Italia. Un record assoluto si conta oggi di contagi in un solo giorno, i casi positivi nel nostro paese sono aumentati di 7.332, una cifra simile non si era mai raggiunta dall'inizio dell'epidemia, è vero che c'è stato un alto numero di tamponi. La situazione preoccupa comunque molto gli esperti, al punto che non escluderebbero un Natale, il prossimo Natale è tutto di lockdown, di chiusura totale. Lo riterrebbe per esempio opportuno il microbiologo Crisanti, che voi sapete è notissimo perché ha condotto il modello e creato il modello Veneto, che tanto è stato elogiato in Italia ma anche all'estero. Secondo Crisanti, insomma, dice, sarebbe auspicabile per contrastare veramente il coronavirus questo lockdown a Natale. Sentiamolo a Rai News 24 oggi. Ma guardi, un lockdown in quel periodo potrebbe risettare in qualche modo il sistema, abbassare la trasmissione e alla ripresa aumentare la capacità di interdizione sul territorio, cioè aumentare l'efficienza del contact tracing e dei tamponi, perché così come siamo con questi numeri, cioè il sistema è saturato. E ha detto anche Crisanti, non vorrei trovarmi tra poco a discutere di 10.000 casi al giorno. Interpellato però a proposito di questa ipotesi di lockdown a Natale, il Presidente del Consiglio Conte ha risposto che al momento non è possibile fare previsioni. Sentiamo. Io non faccio previsioni per Natale, io faccio previsioni in questo momento delle misure più idonee, adeguate e sostenibili per prevenire un lockdown. Però dipenderà molto da quello che sarà il comportamento di tutta la comunità nazionale. Questa è una partita in cui vinciamo tutti, altrimenti perdiamo tutti. Non potete pensare che ci sia il governo che risolve il problema. L'abbiamo risolto e ho dato merito a tutta la comunità nazionale. È stata la comunità nazionale che ci ha consentito di affrontare la fase più dura. È stata la comunità italiana, benemerita, che ha affrontato la prova difficilissima e ne siamo usciti vincitori. Adesso la stessa cosa. E comunque Conte ribadisce che la situazione è preoccupante. Continua questa curva che sta lentamente ma progressivamente crescendo. È la ragione peraltro per cui abbiamo adottato delle misure restrittive. Non ci ha fatto piacere, ma dobbiamo adesso rispettare queste regole più restrittive. È una situazione che non può non preoccuparci, non può non spingerci a rispettare tutte le regole. E come sapete, da qualche mese gli esperti sono un po' divisi tra loro in due, diciamo, macrogruppi, se così possiamo dire, tra coloro che vedono la situazione attuale e anche le previsioni in modo un po' più preoccupante e chi invece ha un'interpretazione un po' più ottimistica della situazione dei dati e dell'evolversi dell'epidemia. E su questo saluto il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, nonché ordinario di malattie infettive all'Università di Genova. Bentornato, professor Bassetti. Grazie, buonasera a lei. Lei questa possibilità e questa ipotesi per contrastare in modo drastico il coronavirus di chiudere il paese, lockdown a Natale in Italia, cosa ne pensa? Non ci voglio neanche pensare, anche perché prima di arrivare al lockdown credo che ci siano molti altri passaggi potenziali da fare per evitare di limitare questa epidemia. Questo non vuol dire essere dei negazionisti, come qualcuno ignorantemente ha definito qualcun altro, ma è vedere passo per passo. Credo che col DPCM che è stato fatto si è fatto un passo importante, si sono messe delle misure di un certo tipo, scientificamente magari non corrette al 100%, ma sicuramente importanti dal punto di vista sociale, come la mascherina all'aria aperta, che in qualche modo tutti abbiamo supportato. Addirittura ci sono città, di stasera, la città dove io vivo e lavoro, che addirittura ha reso ancora più stringenti le misure per quanto riguarda il centro storico e alcuni altri quartieri dove l'epidemia in qualche modo, sì, Genova, dove l'epidemia in qualche modo sembra non controllata, per cui prima di pensare a un lockdown totale generalizzato, che vorrebbe dire la fine dal punto di vista sia sanitario che economico e anche sociale, penso che ci possano essere dei passaggi diversi. Qui non vuol dire essere ottimista o pessimista, qui è quello che sta facendo tutto il resto del mondo. Ecco, cioè dice, navighiamo a vista, vediamo passo passo, ecco, quello che succede. Navighiamo a vista, voglio dire, anche i francesi che sono di fronte a una situazione così difficile e molto più grave della nostra, hanno deciso comunque di fare stasera una sorta di coprifuoco dalle 21 alle 6, cercando di limitare almeno in quello spazio tutte le attività. Quindi si pensa comunque a delle soluzioni non generalizzate. Io credo che oggi dire che ci potrà essere un lockdown a Natale sia sbagliato, perché il Natale è visto da un paese cattolico come il nostro comunque come un momento di festa, come un momento di coronamento di un anno, ed è il momento soprattutto in cui le attività economiche e commerciali hanno la loro summa e il loro massimo, per cui dire che ci sarà un lockdown proprio nel periodo di Natale, credo che detto peraltro non da un da un politico, ma detto da un medico, secondo me molto grave. Comunque ognuno si assume le responsabilità di quello che dice. Professor Bassetti, invece, per quanto riguarda i numeri, appunto citavamo la Francia, con la quale mi collegherò tra poco, in una giornata quasi 23.000 contagi, e non per niente appunto Macron poco fa ha annunciato questo coprifuoco per due settimane. Invece per quanto riguarda l'Italia, i numeri di oggi, non dicevamo 7.332 nuovi casi più 43 morti. Lei come li legge questi dati di oggi? Che la situazione è certamente da tenere sotto controllo, perché siamo passati da una percentuale di positivi sul numero di tamponi fatti che era intorno al 2% per circa un paio di mesi, siamo arrivati adesso che siamo intorno al 5%. Il dato di oggi ci dice che la capacità di fare tamponi è diventata straordinaria, perché arriviamo a fare 152.000 tamponi, oggi il record storico assoluto italiano, che vuol dire che se andiamo su una prospettiva settimanale ci porta vicino al milione di tamponi, se riuscissimo a mantenere questi ritmi. Quindi diciamo che siamo arrivati ai numeri della Francia, siamo arrivati ai numeri della Germania, un po' meno rispetto all'Inghilterra. Quello che sta succedendo è questo, che noi abbiamo tanti contagi, che rappresentano per fortuna nella maggioranza dei casi, oltre il 95%, soggetti sintomatici o poco sintomatici, però abbiamo un 5% che vanno in ospedale. Capisci che il 5%... C'è su qualcosa, professore? Riprendiamolo subito, stava dicendo qualcosa di interessante, capire che cosa intendesse per questo 5% che finisce in ospedale. Ditemi appena c'è di nuovo in collegamento. Intanto sto vedendo appunto le varie aggiornamenti su quanto annunciato Macron, per esempio annuncia multe per chi viola il coprifuoco, tra poco appunto sentiremo il nostro corrispondente dalla Francia. Professor Bassetti, eccoci, scusate, si era oscurato, era scomparso nel nulla. Vabbè. Che qualcuno non la censura, qualche censura forse, ma noi, non è nostro problema questo. Stavo dicendo che ci sono purtroppo tanti ricoveri, perché noi cosa abbiamo oggi? Abbiamo una malattia che ha una complessità che è molto diversa rispetto a quella di marzo ed aprile, quindi abbiamo molti ricoveri nella media e bassa cosiddetta complessità e una piccolissima porzione che riguardano l'altissima complessità che sono le terapie intensive. Però essendo molti questi ricoveri, noi abbiamo bisogno di trovare molti posti letto. Oltretutto abbiamo un carico importante che sono i ricoveri sociali, cioè ci sono persone che quando si infettano e si contagiano non possono tornare a casa, evidentemente vivono con una persona molto anziana, vivono in 7-8 nello stesso appartamento e quindi ci sono problemi molto importanti anche di collocamento di queste persone. Quindi è evidente che oggi c'è una grossa pressione sugli ospedali, veramente molto importante, e noi stiamo cercando ovviamente come sistemi sanitari di trovare il posto letto per tutti e di curare tutti ai massimi. Però quindi non è che si tratta di essere ottimisti o pessimisti, si tratta di essere realisti, guardi sui numeri. La letalità, quando eravamo lo stesso numero di contagi, c'eravamo intorno ai primi di maggio, avevamo circa 1000 morti al giorno, oggi ce ne abbiamo 40, sono sempre tantissimi, ma la letalità è un dato di fatto. Chi ha ancora una letalità elevata deve farsi le domande se non ha sbagliato i propri protocolli di cura dei propri pazienti, perché noi al San Martino abbiamo una letalità che è inferiore oggi allo 0,5%. Senta, professor Bassetti, sinteticamente lei, a proposito di questa diatriba che riguarda il trasporto pubblico locale e le scuole, le regioni che continuano a chiedere al Ministero dell'Istruzione di far ritornare i ragazzi e le ragazze degli ultimi anni delle scuole superiori alla didattica a distanza, quindi da casa, in modo da non congestionare, da decongestionare quindi i mezzi pubblici. Oggi c'è stato un primo tavolo con la Ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, che però per il momento dice che la capienza rimane all'80% dei mezzi pubblici, e intanto l'amministrazione Lina che dice assolutamente no, i ragazzi devono rimanere a scuola in presenza. Lei molto brevemente cosa pensa di questo nodo da sciogliere? Io penso che i mezzi come oggi viaggiano non siano mezzi sicuri, nel senso che se pensiamo di poter lasciare la possibilità di non contagiarsi esclusivamente a una mascherina, quando i ragazzi stanno a 20 centimetri uno dall'altro, toccandosi uno con l'altro, è evidente che non sono trasporti sicuri per quel che riguarda ovviamente il rischio di contagio, per cui qualcosa bisogna fare, è evidente, si sarebbero dovuti probabilmente comprare nuovi autobus o nuovi vagoni della metropolitana, non si è fatto e quindi bisogna trovare una soluzione, perché così il rischio è che molti ragazzi, ma non solo ragazzi, perché su quegli autobus viaggiano anche persone non tanto giovani, si possano contagiare. Senta, quindi per chiudere, se lei dovesse dare appunto delle raccomandazioni in questo momento, dalla sua esperienza e dal suo ruolo di esperto, le regole del nuovo DPCM, diceva, sono un passo in avanti, sono sufficienti? Io credo che quello che dobbiamo dire è che le regioni devono attrezzarsi a dei reparti, avere sempre più posti letto per la medio-bassa complessità. Questo è fondamentale, perché noi dobbiamo avere la possibilità di curare tutti. Noi siamo un paese di persone molto anziane, molto lacogliani, per cui dobbiamo quello lavorare più che sulle terapie intensive. Abbiamo forse sbagliato in una prima fase pensando di dover avere bisogno di 4.000 posti in terapia intensiva, nella realtà probabilmente ne abbiamo bisogno di molti meno, ma abbiamo bisogno di molti più posti letto, diciamo, della medio-bassa complessità. E poi il messaggio è che con queste misure il governo ha probabilmente chiesto 150 agli italiani per ottenere 100. Quindi io credo che dobbiamo tutti guardare, rispettare queste regole, perché soltanto, come diceva giustamente il primo ministro e il nostro presidente del Consiglio, è soltanto col lavoro di tutti che possiamo riuscire a vincere anche questa seconda battaglia. Grazie, questo è chiaro ed è doveroso. Grazie professor Matteo Bassetti, buon lavoro, buona continuazione. Grazie a lei, buona serata. Adesso ci fermiamo naturalmente sempre per la pausa di riflessione con i vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, dove per esempio un ascoltatore scrive: il professore di Padova, immagino appunto Crisanti, dice non sta facendo altro che porre attenzione su quella che potrebbe essere secondo i dati attuali un'evoluzione statistica dei contagi, di conseguenza dell'impatto che tutto questo potrebbe avere sul sistema sanitario, perché ricordiamoci, dice, che rischiamo di tornare a quanto è successo a marzo e ad aprile, non siamo nelle condizioni di salvare la vita a tutti, il resto del mondo, dice, degli ammalati, appunto quello che diceva il professor Bassetti, bisogna attrezzarsi e speriamo che questo benedetto sistema sanitario nazionale, che già è sempre stato un fiore all'occhiello dell'Italia ma che ha subito tanti tagli negli ultimi anni, negli ultimi decenni, sia veramente al centro delle priorità della politica. A tra poco. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se siete all'ascolto di Effetto Notte, complimenti, perché sapete che è qui che trovate tutte le notizie più importanti da sapere a fine giornata, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo. Roberta Giordano con voi a raccontarvele tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e poi gli ospiti naturalmente qui in collegamento per approfondire alcuni temi in particolare. I vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. Un ascoltatore che si firma Paolo scrive: salve Roberto, una curiosità, quando parla Conte si mette in ginocchio? Chiede a me, dice: ieri ce l'ha fatto sentire per almeno 8 volte, 10 volte, dice stasera prima della fine, eccetera eccetera. Allora, vorrei ricordare che è Conte il Presidente del Consiglio, che soprattutto in questo periodo sta facendo molte dichiarazioni importanti, che uno può condividere o non condividere, ma è il Presidente del Consiglio, dobbiamo sapere, visto che poi direziona la nostra vita. Lo stesso farei se ci fosse Berlusconi, se ci fosse Salvini, se ci fosse Meloni, se ci fosse Renzi alla Presidenza del Consiglio. Però ecco, quando sento Conte non mi metto in ginocchio, ma quando leggo i farneticamenti dei cretini faccio spallucce. Dopodiché a questo punto torniamo sulle cose serie, e ieri, sapete, abbiamo parlato con il presidente di Astra, che è la società, l'associazione delle aziende datoriali del trasporto pubblico, pubblico locale, Gibelli, a proposito del fatto che le regioni chiedono che i ragazzi, abbiamo ripetuto più volte, le ragazze delle scuole superiori degli ultimi anni tornino a fare la didattica a distanza, per non creare tutto questo assembramento, questa congestione, queste folle che abbiamo visto sui mezzi pubblici in questi giorni, anche se si dice che è più una percezione, che in realtà non è vero che sono così pieni, però insomma le immagini le abbiamo viste. E l'allarme che lanciava ieri il presidente di Astra è che se si riducesse, già la capienza massima è tollerata fino all'80%, se si riducesse al 50%, tantissime persone, centinaia di migliaia di persone resterebbero a terra e magari si farebbero assembramenti alle fermate, sulle banchine, eccetera eccetera. Oggi c'è stato questo tavolo di confronto tra la ministra dei trasporti De Micheli e appunto le associazioni del trasporto pubblico, gli enti locali, le regioni eccetera. Quali sono state le conclusioni? Che per il momento la capienza sui mezzi pubblici resta all'80% e si fa l'ipotesi al momento dei nuovi di scaglionamenti di ingresso nelle scuole. Allora voglio sapere che cosa ne pensa Mario Rusconi, che è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Sezione Lazio, e che saluto, bentornato professor Rusconi. Buonasera a tutti voi. Allora, lei sa che la ministra Azzolina da ieri, insieme anche al presidente del Consiglio Conte, insieme anche al ministro della Salute e Speranza, continuano a ribadire che i ragazzi no, devono restare a scuola in presenza. Non se ne parla di rifare la didattica a distanza, anche se è una misura in questo momento che si alterna a volte in alcune scuole, no? Per non creare troppa presenza fisica, troppo ravvicinamento tra i ragazzi. Lei che cosa ne pensa? Una possibile soluzione di scaglionare gli ingressi a scuola, è fattibile? Ma guardi, gli ingressi a scuola veramente sono scaglionati nel 90% delle scuole italiane, Le faccio un esempio: nel mio istituto abbiamo elementari, medie e superiori. Le elementari entrano alle 8, le medie alle 8 e mezza, le superiori alle 9. Ma diventa tutto un lavoro inutile, come stiamo verificando, nel momento in cui le aziende del traffico, da treni, pullman, bus e così via, non procedono a mettere più mezzi per la viabilità. È diventato quasi, pensi, abbiamo avuto anche dei rapporti noi con delle aziende a livello provinciale, abbiamo appunto parlato della differenziazione degli ingressi dei ragazzi e delle uscite, ci hanno detto voi sì potete pure farlo, ci hanno detto con una certa sicumera, tanto noi coi pullman abbiamo, per cui se il pullman passa alle 9 possono venire alle 8 e mezza, possono venire alle 9 e mezza, ma solamente alle 9 troveranno il pullman. Cioè a noi sembra paradossale che si cerchi di risolvere un problema, mi permetta l'espressione, di inefficienza del traffico di molte regioni italiane, quindi di colpevole, diciamo così, trascuratezza da parte di chi ha il potere di intervenire, e si pensi di poter fare lo scaricabarile sulle scuole, senza considerare che poi i nostri ragazzi, diciamolo con molta franchezza, hanno perso grosso modo un anno scolastico, il che vuol dire perso non vuol dire che potranno recuperarlo, perché essendo stati tutti ammessi alla classe superiore, non parlo di promossi, ma di ammessi legis, cioè in base ad una legge, giustamente alla classe superiore, difficilmente riusciranno a recuperare. Se adesso noi inseriamo di nuovo la didattica a distanza, contro la quale non abbiamo nulla, ma che deve essere adoperata solamente in momenti particolari, noi facciamo un danno formativo ancora maggiore per quelle che vengono pomposamente, retoricamente dette le nuove generazioni, da parte poi di quei politici che tendono a scaricare sulla scuola le loro inefficienze. Professor Rusconi, le farei sentire oggi che cosa ha detto la ministra De Micheli, ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, poco prima del tavolo di confronto a proposito dei fondi stanziati dal governo alle regioni affinché si attrezzassero in questo senso relativamente appunto al trasporto pubblico. Con il decreto legge 111 del 2020 è stato autorizzato l'impiego di 300 milioni di euro del fondo destinato al sostegno del settore del TPL e regionale di passeggeri per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale destinato agli studenti, consentendo in tal modo alle regioni e agli enti locali di disporre delle risorse necessarie per l'individuazione degli operatori economici cui affidare l'effettuazione dei servizi aggiuntivi, per esempio i bus turistici, avvalendosi anche delle modalità semplificate delle gare di cui all'articolo 1 del decreto semplificazioni, quindi risorse e norme accelerate. E ha parlato poi di altre risorse nella legge di bilancio, sentiamo. Nella prossima legge di bilancio, oltre a ripristinare la dotazione di detto fondo, si provvederà a stanziare ulteriori risorse per il sostegno del settore del trasporto pubblico locale, verificando la possibilità di incrementare l'offerta del servizio anche attraverso il coinvolgimento di operatori del settore del trasporto di persone non soggetti ad obbligo di servizio. Cosa dice il professor Rusconi? Quindi il governo dice attraverso la ministra De Micheli noi i soldi li abbiamo stanziati. Mi sembra di capire che la ministra dica sotto altre forme quello che prima io sostenevo con una certa foga, cioè in poche parole lo Stato, cioè noi cittadini abbiamo stanziato una serie di piuttosto consistente di risorse economiche e finanziarie, che fine hanno fatto? Siamo noi che dobbiamo chiedere alle regioni, avete preso più pullman, avete preso accordi per esempio i gestori di bus privati e così via, avete aumentato il numero degli organici per aumentare le corse delle metropolitane, dei treni, degli autobus? Loro devono rispondere a noi, non possono fare lo scaricabarile, ripeto, perché non è semplicemente una questione di competenze, non ci appartiene questa logica, è una questione proprio di danno che viene fatto alle cosiddette giovani generazioni, cioè in poche parole i nostri ragazzi hanno perso un anno, rischiano di perdere ancora un altro anno. Non conoscere che cosa vuol dire la didattica digitale lascia perplesso me come formatore di intere generazioni, perché la didattica digitale, che è uno strumento importante, bello, utile, va saputo adoperare in momenti particolari, anche di pomeriggio quando si va la mattina a scuola, ma pensare che possa servire a tamponare le falle dell'inefficienza delle politiche regionali è una cosa che noi rigettiamo. Grazie professor Rusconi. Grazie, buon lavoro, buona continuazione. Insomma, non è compito facile. Poi ricordo che appunto il Ministero dei Trasporti si è detto disponibile a ulteriori tavoli operativi regionali e provinciali per poi man mano valutare le varie criticità, i vari temi di criticità. Bene, direi che adesso è il momento di aggiornare chi sta viaggiando. Un ascoltatore, Stefano G, dice: ma perché avete evitato Bassetti, imposto dalla politica? Ma quando mai? Io direi che qui a Effetto Notte non è mancato un virologo, una virologa dei principali che hanno parlato in tutti questi mesi, da Ilaria Capo a Susanna Esposito a Massimo Galli, da Zangrillo a Crisanti, cioè non è mancato nessuno fino a Bassetti. A dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. La decisione che nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer. Avete sentito la notizia? La decisione che abbiamo preso questa sera è la notizia del coprifuoco. L'ha annunciato il presidente francese Macron alla Nazione, in realtà in un'intervista, insomma, in un'intervista televisiva che ha sentito gran parte del popolo francese, sicuramente il nostro Danilo Ceccarelli in diretta da Parigi. Ciao Danilo. Buonasera. Quindi diciamo Macron, purtroppo spinto dai numeri molto preoccupanti del contagio di coronavirus in Francia, è stato costretto a passare a misure drastiche. Un coprifuoco che dovrebbe partire sabato, se non sbaglio, dalle 21 alle 6, quindi tutto chiuso a Parigi e in altre città che sono in allerta per almeno 4 settimane, Danilo. Esattamente, si tratta di una misura che era già stata anticipata ampiamente dai media nelle ore precedenti all'intervista che ha rilasciato Macron, quindi possiamo dire che non è proprio una sorpresa per i francesi. Il coprifuoco si scatterà sabato sera, interesserà Parigi, la regione degli Île-de-France e altre città che sono state messe in stato di massima allerta, come ad esempio Marsiglia, Aix-en-Provence, Rouen e altre metropoli. Per il momento non sono stati dati molti dettagli. Macron ha spiegato che è prevista una multa di 135 euro per chi non rispetterà questo coprifuoco. Bar, ristoranti, teatri rimarranno chiusi, ma ci saranno delle deroghe per chi, soprattutto per chi dovrà lavorare la notte. Per maggiori informazioni verranno date domani dal primo ministro Jean Castex, che dovrebbe tenere una conferenza stampa appunto per svelare i dettagli di questa nuova stretta. Macron comunque ha riconosciuto che la situazione sanitaria in Francia è grave, c'è una seconda ondata, lo ha chiaramente detto, e per questo ha fatto appello anche al senso di responsabilità dei francesi. Senti, senso di responsabilità che c'è o non c'è? Perché già si parlava della chiusura di bar e ristoranti, o almeno con degli orari insomma particolari nei giorni scorsi, e però chi faceva video da Parigi mostrava tutti i bistro aperti, la gente che continuava a frequentarli. Quindi com'è la situazione? Nel senso, c'è il rispetto delle regole da quello che vedi tu, Danilo? Sì, c'è un rispetto, possiamo dire complessivamente c'è un rispetto delle regole. Sono circolati molti video qui sui social network che riguardavano delle feste clandestine qui a Parigi, giovani ragazzi che si erano organizzati all'interno di appartamenti, sono stati fatti vari reportage da vari giornali francesi. Molti bistrò sono rimasti aperti perché la precedente restrizione riguardava solamente i bar, quindi tutti quei locali che servivano anche cibo potevano rimanere aperti. Quindi in una città come Parigi, piena di bistrò, brasserie che hanno anche una cucina, potete immaginare che alla fine sono stati pochi i bar che sono stati costretti a chiudere. E tra l'altro, Danilo, non è stata una decisione facile per Macron, come non è ovviamente per nessun presidente o presidente del Consiglio, insomma capo di un governo, dover imporre delle restrizioni alla popolazione, però mi pare che anche all'interno del governo stesso, no, ci sia stato un po' di braccio di ferro. Esattamente, secondo delle indiscrezioni trapelate questo pomeriggio da BFM TV, l'emittente televisiva, sarebbe una frattura all'interno della squadra di governo tra chi, come ad esempio il ministro della salute Olivier Véran, è favorevole a questo coprifuoco e chi invece, come ad esempio il ministro dell'interno, dell'istruzione, è contrario perché teme che si possano accentuare delle fratture interne alla Francia, che alcuni settori possano soffrire veramente molto. Comunque il presidente Macron lo ha annunciato, ha promesso che i settori, penso soprattutto a quello della ristorazione o all'alberghiero, questo tipo di settori verranno aiutati con dei nuovi sostegni, con dei nuovi sussidi economici. Bene, grazie Danilo Ceccarelli da Parigi, un abbraccio. Grazie a voi, grazie mille. Ciao Danilo. Ora invece inseguiamo il nostro Dario Ricci a Bergamo, dove è in corso la partita della nazionale maschile di calcio contro i Paesi Bassi. A che punto siamo, Dario, in questo stadio semivuoto con 1000 solo persone del pubblico, ci dicevi, operatori sanitari, medici, sindaci dei paesi intorno a Bergamo? Sì, proprio così, Roberta, sentirai ancora in sottofondo le voci dei protagonisti, sì, in questo momento perché, stadio quasi vuoto. Donnarumma che rimette il pallone esattamente verso Bonucci. Siamo al sesto del secondo tempo, c'è un bel lancio in profondità, liscio di De Vrij, non ci arriva Pellegrini. Sesto del secondo tempo, risultato ancora sull'1-1, al sedicesimo proprio Pellegrini, ricordiamolo, ci aveva portato in vantaggio sul bel assist di Barella, poi diverse occasioni per gli azzurri, ma al 26esimo su una situazione tutto sommato abbastanza casuale, il pareggio di Van den Beek. In questo inizio della ripresa però Olanda più intraprendente, o meglio Paesi Bassi per come ci siamo detti, sì. Ma diciamo che gli arancioni hanno conquistato ben 3 calci d'angolo consecutivi. Adesso l'incursione a centro area e la deviazione ancora in angolo di Chiellini, quindi risultato per il momento fermo sull'1-1, mentre nel nostro girone la Polonia sta battendo la Bosnia per 2-0, in questo caso si porterebbe ad essere la nuova capolista. Ricordiamo che si qualificano alle finali proprio solo le vincenti dei vari gironi, quindi insomma sarebbe meglio proprio vincerla, dicendo una cosa alla catalano, questa partita. Nations League stiamo parlando. Sì, Nations League, che è un torneo che è alla seconda edizione, che di fatto ha preso il posto di quelle che erano abitualmente le amichevoli che si giocavano tra settembre e novembre. Diciamo che è un torneo che tende un po' a far affrontare almeno le squadre più forti tra di loro e a dare un significato a partite che prima ne avevano tutto sommato ben poco. Adesso ottavo di gioco 1-1 qui a Bergamo tra Italia e Paesi Bassi. Un abbraccio a te a Bergamo, grazie Dario Ricci. Un abbraccio. Ciao caro Dario, noi ci risentiamo brevemente alle 22. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.